cazzo, ma non si accende. No, no. Ma, oh. No, non funziona, è rotta. Aspetta, ma accendiamo, ma no, quest'altro. Minchia. Cala la tenebra, il calamaio integra. Scala, attacca la timpanina che la pievicità. Non due H a caso, vivo in sfaso. Totale non sfarzo, mi sforzo, ma so. Qui gioco stato, maso, massi. Altro che rincaso, retardo super grassi. Non gratis, gratugi, gratis sotterfugi. Ma non sfuggi a sti aspis coi lapis. No, lazzuli, lassi di tempo o lazzi che lanci. Ma qui non si vede, si prevede, ma non si provvede. Anzi, si cerca l'interruttore per interrompere le beghe. Bighe, corrono alla cieca come in Ben Hur. Lasciamo tracce come un Bigfoot in boots. Sei ricco di rime, occhi Robin Hood. Qua giù, laggiù altri villaggi. Altri raggi o altri raggiri. Record a giri, a giri ma giri con girini. Troppi paggi, pochi saggi, noi spine, chili. Chi li avessi messi con tutto sto buio. Autodidatta, si tratta di averlo in pugno. Ci si arrangia, dall'alfa alla lancia. Si amalgama la paglia nella gancia. Come dalla lupi, banzai. Tempi cupi, incubi che incubi, incubi. Blackout, ciao. Clic, clic, ma la luce non si accende. È un blackout, interruzione di corrente. Le lampadine saltano, non va la tele. Noi accendiamo torce, non candele. Clic clic, ma la luce non si accende. È un blackout, interruzione di corrente. Le lampadine saltano, non va la tele. Noi accendiamo torce, non candele. Clic clic, 13 al circuito elettrico. Si connette, erbette, internet e tette. Dalla Svizzera ci si espande, c'è chi spende, spande. Ma con spade ti ferisce alla gola. Troppi popoli che non vengono da metropoli. Troppi che guarda la vita come il Monopoli. Monopoli fiscali ai soldi, rischiali, è una botta freddo. Lo so, l'ammetto. Non ometto il succo del discorso. Metto bianco nel tubetto. Fanculo alla publa, dribla, usa cartine ritri. La serata interminabili, terminali abili senza alibi. Sono un militare con tare mentali. Votato all'hip hop, alla naia sto stretto. Me l'han detto o l'ho letto, scritto. Cachè, vitto, alloggio, all'arembaggio. Combattenti, clic clic, colpi di pistola all'equipaggio. Ne vuoi un saggio? Da maggio a maggio che sto messo da paura. Demo, esperienze in live, nuove amicizie, vizi truzzi. Di sto passo a sbocchi, hooligans. Ascolto i Guns, Mo Buddha, Phyllis Blunt. Con Super Skunk, Bronk, clic clic, circuito elettrico, clic. Ma cazzo, click. Qui è tutto buio. Clic clic, ma la luce non si accende. È un blackout, interruzione di corrente. Le lampadine saltano, non va la tele. Noi accendiamo torce, non candele. Clic clic, ma la luce non si accende. È un blackout, interruzione di corrente. Le lampadine saltano, non va la tele. Noi accendiamo torce, non candele. Blackout, ne demande pas de time out. Car de toute façon, dans ce jeu, tu es out. Si tu n'étais pas au courant, on a ôté le courant. Pour faire telle les mauvaises ongles, être silencieux comme dans un courant. À t'écouter, je m'aperçois que tu fais que du bon. Alors, pour la double H et son mouvement, toujours en contre-courant. Je remets la frise et balance en une prise des lyrics de haut voltage, au voltage qui vise, qui l'instrumental l'apprivoise avec des insultes. Oubliant l'âge adulte, moi j'incite à la révolte. Choc comme 1000 volts, bref, attention, ici c'est haute tension. Tension comme dans une révolution. Putain, tout s'est éteint, même la télévision. Pose pas beaucoup de questions, c'est un court circuit. Donc fais pas le guignol, sinon t'es cuit. Ou comme un Daytona hors circuit, c'est une manie. Mais on choisit toujours les sens interdits. Gardons une atmosphère électrique, ce qui donne un rythme à notre musique éclectique. Restons fantastiques, magnifiques comme les quatre battes. Franchir les limites du son, fiston comme un avion supersonique. Sonic, si le video game, game over. Pas de lumière, lueur, daylight. C'est la face cachée de Locarno by night. C'est fait du bruit, cherche pas l'interrupteur. T'as peur, c'est les êtres de la nuit. Domino Cast, no man, chroniqueurs. Pas de farce, farci comme une tomate. Du mat, mon kefri, espèce d'abruti. On arrivait droit au but. Alors qu'est-ce qu'attend, allume une butte. Clic clic, ma la luce non si accende. È un blackout, interruzione di corrente. Le lampadine saltano, non va la tele. Noi accendiamo torce, non candele. Clic clic, ma la luce non si accende. È un blackout, interruzione di corrente. Le lampadine saltano, non va la tele. Noi accendiamo torce, non candele. An open microphone. An open microphone. Microphone.